l'azione di ogni giorno quando muore, che silenziosamente osserverò. Ogni notte cerco il sole solo per guardarti e fingere che domani il buio sparirà. Danziamo sulle note di una notte che senza motivo svanirà. Se perso sotto un temporale, farò a pezzi il mio dolore, certo che qualcosa cambierà. Solitario aspetto il giorno, immaginando un tuo ritorno che silenziosamente arriverà. Ogni giorno vedo il sole per amarti e fingere che siamo due epicentri che metà. Portami lontano e poi sulle note di una notte che senza motivo svanirà. Se perso sotto un temporale, farò a pezzi il mio dolore, certo che qualcosa cambierà. Svanirà.